voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ugo, guardala, non sembra un angelo, Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, Non voglio sentire volare una mosca, Pina. Il Pepe, Pepe. Sì. Ehi, Pina, mi raccomando, Tocca al telefono. Ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Pronto? Ah, è lei, ragionier Filini! Ah, Filini! Io sono già in trincea e do la perfida Albione 10 caffè contro 1! Italia! Italia! Ha sentito? Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo. Seconda parte di Eclettica si è aperta con un qualcosa di particolare. Seconda parte del giovedì in compagnia di Giulio Caperdoni, che vi ricordo è presente sulle frequenze di Rock FM dalle 19 alle 20 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Si è aperta con qualcosa di particolare perché è stato preso un album storico del 1990, Damaged, da parte dei Black Flag. Sono sicuro che ci sono molti fra coloro all'ascolto che se lo ricordano e magari di tanto in tanto ancora lo riascoltano. Ecco, preso questo album è stato completamente rifatto, anzi, per essere precisi, completamente stravolto dalla formazione newyorkese dei Dirty Projectors, che hanno preso l'opera dei Black Flag e ci hanno aggiunto violini, ci hanno aggiunto stili africani, ci hanno aggiunto bassi funk, voci femminili e anche canti gregoriani. Noi ci siamo ascoltati una traccia in cui erano presenti solo alcune di queste cose, ovvero sia No More. Rimaniamo nella città di New York City per ascoltarci il duo proveniente però da Taipei dei Misha, in questo caso con un brano che potrebbe anch'esso suonare strano, ma poi si rivela comunque molto piacevole all'ascolto. Si tratta di Cruelest Heart. Arrivò in uno stato frenetico. Era nel bel mezzo di una lezione di tip-tap quando squillò il telefono e gli venne impartito l'ordine di convocazione immediata a Berchtesgaden. Egli temeva che si trattasse del mancato arrivo a destinazione di un carico di parecchie migliaia di cappellini cotillon che aveva promesso a Rommel per l'offensiva invernale. Himmler non era abituato agli inviti a cena a Berchtesgaden perché era estremamente miope e Hitler non poteva sopportarlo mentre portava la forchetta troppo vicina alla faccia e poi si spiaccicava il cibo qua e là sulle guance. Himmler stava pensando a qualcosa di tragico, perché Hitler al telefono l'aveva chiamato tappo, cosa che faceva solamente quando era irritato. Immediatamente il Führer si rivolse a lui sbraitando: Churchill sta forse per farsi crescere le basette? Himmler diventò paonazzo. Allora? Egli confermò che correva voce che Churchill stesse tramando una storia di basette, però non erano notizie ufficiali. Circa la lunghezza e il loro numero, egli spiegò, sarebbero state probabilmente due, e di lunghezza media, ma nessuno osava pronunciarsi fino a quando non ci fossero stati elementi sicuri. Hitler si mise a strillare e a battere il pugno sul tavolo. Questo fu un trionfo di Göring su Speer, e srotolò una carta geografica per mostrare come intendeva tagliare all'Inghilterra i rifornimenti di salviette calde. Attuando il blocco dei Dardanelli, Dönitz poteva impedire che gli asciugamani venissero inoltrati verso l'interno, dove si protendevano milioni di visi inglesi in un'attesa spasmodica. Tuttavia, la questione fondamentale rimaneva la seguente. Poteva Hitler battere Churchill nella corsa alle basette? Questo era ancora Le memorie di Schmid, da Saperla lunga, di Woody Allen. For the radio, but I know you like to see it's in a show, claiming to be the next best everything. Which way will you go? You're a little smarter than most of us. Run so fast sometimes, it's hard to see you for dust. Finding some time for you, it tortures me. Which way will you go? Wait, is on a Friday. Spent on Saturday. Lend me a fiver. Won't do that again. Oh, you trust me too strong. You're out against it, a bad. Won't spare you a bad. Superstar wannabe. Said it comes naturally. Cemented in your own feeble way. You watch his train spotting 15 times a week. Thinking it's making him, oh, so unique. PC on summer nights. Football in the rain. Doesn't matter how far he is, he's always money for the train. Which way will you go? Nothing against you, love in my heart. You're really a nice guy, known it from the start. Is eager to know where you lie. Pushing your limits, get it up and remember. You can cry. Remember, you can cry. And I know, and I know, and I know that you can cry. Wait is on a Friday. You're out against it, a bad. Won't spare you a fight. A superstar wanna be. Says it comes naturally. Cemented in your own feeble way. You have a face for the radio, but I know you like to see it's in a show. Siete collegati, gentili telespettatori, allo stadio di Wembley, in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo, credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No. Ugo! No. No. Ughino, non fare, fare così. giunto il momento di raccontarvi quello che è successo negli ultimi minuti all'interno di Eclettica, in quanto sono già passati due brani senza un intervento da parte di Giulio Caperdoni che vi sta parlando. Prima The View con Face for the Radio e poi gli italiani Jennifer Gentle che sono usciti ancora per Sub Pop con un album da cui abbiamo estratto Electric Princess, anche se usare il plurale per loro ormai è un po' così una forzatura, in quanto Jennifer Gentle da un nome di un gruppo è diventato uno pseudonimo. Si prosegue con un album per cui vado a dirvi una cosa che di tanto in tanto mi trovo a dire e non so neanche io il perché. Come di dischi che rappresentino i miei ascolti personali invece si abbia un riscontro estremamente limitato nelle playlist di Eclettica, compaiono veramente pochissimo o per nulla fino ad un momento in cui Illuminazione, io mi dico ma perché non li metto anche in programmazione? Per esempio succede con The National, loro ultimo album per Beggar's Banquet, ormai uscito qualche mese fa dal titolo The Boxer, senza il The forse, sì, Boxer, senza l'articolo, album da cui ci ascoltiamo proprio la traccia che lo apre, Fake Empire. Stay out super late tonight, picking apples, making pie, put a little something in our lemonade, and take it with us, put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Affermò che Churchill era partito avvantaggiato e che forse sarebbe stato impossibile raggiungerlo. Göring, da facilone qual era, sostenne che probabilmente il Führer avrebbe potuto farsi crescere le basette più in fretta, specie se avessero potuto coordinare tutta la potenza germanica in un solo sforzo collettivo. Von Rundstedt, in una riunione al quartiere generale, disse che era un errore cercare di far crescere le basette su due fronti simultanei e consigliò di concentrare tutte le energie su una unica robusta basetta. Hitler però sostenne che poteva farlo contemporaneamente su entrambe le guance. Rommel si dichiarò d'accordo con von Rundstedt. «Non verranno mai uguali, Mein Führer», disse, «se le forzerete entrambe». Hitler cominciava ad andare in bestia e sbottò che era una faccenda che riguardava lui solo e il suo barbiere. Speer promise che per l'autunno avrebbe potuto triplicare la produzione di crema da barba e Hitler ne fu entusiasta. In seguito, nell'inverno del 1942, i russi lanciarono una controffensiva e l'operazione Basette subì una battuta d'arresto. Hitler incominciava a scoraggiarsi, temendo che Churchill avrebbe avuto presto un aspetto magnifico, mentre a lui sarebbe rimasta ancora una faccia comune. Ma ricevette poco dopo notizie che Churchill aveva abbandonato il piano delle basette perché risultava troppo costoso. Ancora una volta il Führer aveva avuto ragione. Questo era ancora Le memorie di Schmid da Saperla lunga di Woody Allen. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 42, volume numero 4, indice. Pelle Kalberg, I Like Trains, Cajun Dance Party, Soul Seppi, Dirty Projectors, Misha, The View, Jennifer Gentle, The National, Don Turbolento. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.